scritto. Ti ho detto domani faccio il 24 3364, senti il numero 24 3364, ti scuola notte e giorno, però, beh, capito? Vediamo se tua madre ti toglie quel cazzo di